come mi comporto. Ogni sofferenza ha una cicatrice sul mio corpo. La gente dice che io sono un peso morto, ma se sono un peso morto allora levati di dosso. Ho il peso di questo mondo sul mio dorso, così pesante che ad ogni passo creo un fosso. Questo peso è dato da chi ha sparlato, da chi ha dimenticato. Un vaffanculo se l'è meritato. Lo trascino per la mia vita senza me un lamento. Faccio un ultimo sforzo mentre l'amore taglia il petto. Quante volte vorrei abbandonarmi a me stesso, stare solo con me, senza mai pensare al resto. Ma ho scoperto che la vita è ad una doppia lama, come la faccia di una sincera puttana. Ti parla, ti dice che ti ama e ti vuole, ma appena l'abbandono un attimo batte più del mio cuore. Papà vuole che io vada bene a scuola, mamma vuole che le parli della fidanzata che non ancora c'è. Chi vuole che diventi come loro, ma io resterò sempre quello che sono. Papà vuole che io vada bene a scuola, mamma vuole che le parli della fidanzata che non ancora c'è. Chi vuole che diventi come loro, ma io resterò sempre quello che sono. Amo chi mi odia, perché chi mi odia ama. Amo l'odio dato a quella faccia da puttana. Ed ora mi ritrovo con l'amore che bussa alla porta. Ascolta questa forte e ritorno un'altra volta. L'amore, lasciamo stare. Quando tutto è finito diventa una gabbia da cui scappare. Le prime risse fatte, le prime scritte sul muro, le prime volte, il primo bacio ed il primo vaffanculo. La musica mi ha aiutato quando stavo male. Ho aperto le mie porte con la chiave musicale. Ma qualsiasi cosa faccio io, finisco sempre per prendermela con Dio. Mi guardo allo specchio cercando di riflettere, ma dall'altra parte non vedo quel che vorrei essere. Come ne fa, aspetto il sole sulla terra, ma questa vita sembra falsa, di notte eterna. Papà vuole che io vada bene a scuola, mamma vuole che le parli della fidanzata che non ancora c'è. Chi vuole che diventi come loro, ma io resterò sempre quello che sono. Papà vuole che io vada bene a scuola, mamma vuole che le parli della fidanzata che non ancora c'è. Chi vuole che diventi come loro, ma io resterò sempre quello che sono. Fabio, ehi, sono solo 5 lettere, fa riflettere per i mille modi di essere. La rabbia ha sfondato un'altra porta, sono l'asso nella manica di una camicia di forza. Questo cielo nero rispecchia la mia anima, in un altro giorno in cui cade un'altra lacrima. Mi dicono ascolta il cuore, cosa ti dice? Risponde fottiti puttana, si è chiusa la cicatrice. Il passato fa pugni col presente, il futuro è lì che aspetta il vincente. Sono un clown con il sorriso disegnato sulla faccia, mentre un'altra lacrima sporca la mia tinta guancia. Le bugie, ho sempre saputo la verità. Mettetevi una maschera in faccia, perché io ce l'ho già. Dio, ma tu dove alloggi? Dio per me è l'acronimo di domani, ieri, oggi. Papà vuole che io vada bene a scuola, mamma vuole che le parli della fidanzata che non ancora c'è. Chi vuole che diventi come loro, ma io resterò sempre quello che sono. Papà vuole che io vada bene a scuola, mamma vuole che le parli della fidanzata che non ancora c'è. Chi vuole che diventi come loro, ma io resterò sempre quello che sono.